Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Hanno fatta finanziaria, ci avemmo sacrifica. Loro sanno accapputata e noi mo l'hanno aiuta. So 40 finanziaria che noi ci sacrificam. E ti dico vai sicuro che non è fornuto ca. Sulla legge di stabilità piovono le critiche della Banca d'Italia, della Corte dei Conti e dell'Istat. Dubbi sul taglio delle tasse sul lavoro e sulle nuove imposte sulla casa. L'Istituto di Statistica avverte, raddoppiato il numero dei poveri dall'inizio della crisi. La Giunta per le elezioni decide oggi sul voto segreto per la decadenza di Berlusconi. Grillo alla Camera ribadisce: siamo per il voto palese. PD sul congresso, l'ombra del problema tessere. Intervista tra poco al responsabile organizzazione del partito. Datagate, c'è un problema evidente con gli Stati Uniti, dice il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti. Nessuna conferma finora sullo spionaggio da parte di Putin, riferisce l'Unione Europea. Piazza Tiananmen, dopo le 5 vittime di ieri, ora la polizia sospetta che si tratti di un attacco suicida. 14 anni, si prostituivano dopo la scuola per soldi e cocaina, avveniva a Roma nel quartiere dei Parioli, arrestata anche la madre di una delle due ragazze, complice dei fatti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura dunque le audizioni iniziate questa mattina sulla legge di stabilità, audizioni toste, stanno emergendo elementi importanti e alcune valutazioni critiche. È stata la volta della Corte dei Conti, dell'Istat, della Banca d'Italia. Ci riassume che cosa è successo, quali sono i giudizi, in quali punti sono stati identificati gli snodi più complessi il nostro Vincenzo Miglietti. Vincenzo, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Dopo le parti sociali, oggi la volta tra gli altri di Corte dei Conti, Istat, Banca Italia e Ministero dell'Economia. Tanti rilievi fatti alla legge di stabilità, l'esame del Senato con questo provvedimento spiegano i magistrati contabili via il rischio di ulteriori aumenti impositivi, in particolare sulla casa. Critiche poi dalla Corte dei Conti anche al taglio del cuneo fiscale, da cui oltre agli autonomi viene spiegato sono esclusi incapienti e pensionati, ossia circa 25 milioni di soggetti, anche quelli in più difficoltà economiche. Ciò comporta evidenti problemi distributivi e di equità. Altro capitolo, quello della tassazione, per la Corte dei Conti vi sono le condizioni per una tregua fiscale, ma sentiamo il presidente designato della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri. Con la manovra affidata alla legge di stabilità, che copre l'intero arco triennale 2014-2016, si pongono le condizioni per una tregua fiscale basata tuttavia su una dose elevata di deterrenza, l'individuazione di tagli significativi alle agevolazioni fiscali e la posizione di clausole di salvaguardia rappresentano un modulo stringente per l'effettiva attuazione di quelle modifiche organizzative tante volte annunciate ma ancora attendono un compimento. Intervento poi molto atteso quello della Banca d'Italia, conti pubblici in primo piano per mantenere il disavanzo del 2013 entro il 3% del prodotto, sarà necessario un controllo stringente sulle spese negli ultimi mesi dell'anno. Altro tema, quello del cuneo fiscale, il taglio non è elevato, dice il vice direttore generale della Banca d'Italia Luigi Signorini, sentiamo. Le misure rappresentano quindi un primo passo, dimensione limitata per i vincoli di bilancio, verso l'attenuazione del cuneo fiscale sul lavoro, che costituisce uno dei fattori che penalizza la competitività dell'economia italiana. L'elevato cuneo fiscale a carico delle imprese accresce infatti i costi unitari del lavoro, penalizza tanto le vendite all'estero quanto la competitività della produzione nazionale sul mercato interno, e il carico fiscale sui lavoratori riduce il reddito disponibile e quindi i consumi delle famiglie. Infine l'Istat che dice sono le famiglie più ricche a beneficiare di più degli sconti sul cuneo fiscale perché hanno più occupati. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Intanto il governo sta già ripensando le nuove tasse sulla casa. Sentiamo. Le audizioni sulla manovra non hanno fatto altro che confermare apertamente o tra le righe che alla voce tassazione sulla casa c'è bisogno di rimettere le mani. Lo avevano fatto presente ieri le associazioni di categoria, ANCE e Confedilizia, dando anche dei numeri. Con la Trise si rischia un aumento del 70% nel 2014, più o meno 10 miliardi di tasse versate in più. Un conto salato per tutti, abitazione principale, seconda casa, immobili strumentali delle imprese. I conti sono presto fatti e a farli è la magistratura contabile. La TASI, la voce della Trise che riguarda i servizi, moltiplica il suo peso, un per mille sull'imponibile catastale rispetto a quello della vecchia TARES, 30 centesimi al metro quadro. Il dibattito è aperto all'interno della stessa maggioranza e il governo sarebbe pronto a intervenire. Si studiano nuove detrazioni, uno sconto tra i 50 e i 100 euro uguale per tutti, oppure un bonus legato alla dichiarazione ISE per favorire i redditi più bassi. Strade che comunque costano, soprattutto per i comuni, che avrebbero quindi via libera per aumentare l'aliquota dell'imposta. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il quarto trimestre del 2013, sono dati dell'Istat di questa mattina, registrerà per la crescita una debole variazione positiva. A fine anno dovrebbe quindi terminare la fase recessiva, iniziata nel secondo semestre del 2011, scrive l'Istituto di Statistica, che segnala anche il calo per il terzo trimestre del PIL dell'1,8%. Altri dati economici interessanti questa mattina sono arrivati dall'ACRI. Sentiamo Andrea Viali. Costretti a fare i conti con la crisi, gli italiani continuano a considerare fondamentale il risparmio, che seppur timidamente torna a crescere. Nel 2013 la percentuale delle famiglie che sono riuscite a mettere da parte qualcosa è aumentata, anche se in modo timido, passando dal 28 al 29%, mentre scende la fetta di quelle il cui saldo resta negativo. Il tutto va però a scapito dei consumi, in calo generalizzato ad eccezione di quelli per i medicinali. I dati emergono dall'indagine condotta dall'Ipsos e dall'ACRI, l'associazione delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio, che fotografa anche la crescente preoccupazione degli italiani nei confronti della crisi. Quanto alle forme di investimento, continua il calo di chi preferisce il mattone, mentre resta alta la propensione per la liquidità e per i prodotti finanziari ritenuti più sicuri. Il presidente dell'ACRI, Guzzetti. Oggi c'è forse anche qui una maggiore maturazione, una maggiore consapevolezza, e quindi investire in strumenti sicuri, in titoli di Stato, in prodotti assicurativi, quegli strumenti che hanno un rischio zero o presso poco, che danno un reddito, diciamo, accettabile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo sui numeri dell'Italia, perché per parlare di quello che pubblica oggi Il Sole 24 Ore, che è la famosa classifica Doing Business, insomma è una classifica che serve a capire quanto è facile fare impresa nel nostro paese, e sapete che non è per niente facile. Abbiamo scalato qualche posizione, abbiamo Gianluca Di Don Francesco del Sole 24 Ore in studio con noi, benvenuto Gianluca. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, le cose vanno lievemente meglio, ma in realtà su tutti i problemi che denunciamo quotidianamente, le cose restano come sono e anzi peggiorano. Sì, la classifica della Banca Mondiale ci consegna un quadro che purtroppo conosciamo già ed è frustrante, perché è vero che guadagniamo alcune posizioni, passiamo dalla 73esima posizione al mondo come habitat per le imprese dell'anno scorso al 65esimo posto, ma 65esimo posto su 189 paesi per la terza economia dell'Eurozona non è proprio una posizione consona. Certamente. Allora, ti chiedo brevissimamente di dirmi tre punti sui quali siamo migliorati. Siamo migliorati sui passaggi di proprietà per gli immobili produttivi. C'è stata l'anno scorso una semplificazione che ha reso tutto questo più semplice. Sì. Poi siamo migliorati sulla gestione delle procedure concorsuali, delle procedure fallimentari, perché anche qui i tempi sono stati tagliati e le procedure sono state rese più semplici. E siamo migliorati sull'efficacia dei contratti, nel senso che la informatizzazione di alcune procedure dei tribunali ha reso più semplice, più veloci questo genere di cause. Veniamo però ai settori tradizionali, per così dire, quelli sui quali rimaniamo in fondo alla classifica. Rimaniamo in fondo alla classifica e peggioriamo anche, perché ovviamente il neo principale è il fisco, inteso come pressione fiscale e laboriosità degli adempimenti, e qui addirittura se eravamo 131esimi, quest'anno siamo 138esimi. Ci vogliono 269 giorni a un'azienda per pagare tutte le tasse che deve pagare. Quello sul fisco, e poi ci sono anche i permessi per costruire. Male anche sui permessi per costruire, male sulla tutela degli investitori e male sull'accesso al credito. Grazie a Gianluca di Don Francesco per essere stato con noi. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, oggi in edicola naturalmente. Veniamo al Data Gate adesso, perché oggi ci sono state nuove audizioni presso il COPASI, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, e ha parlato anche il sottosegretario con delega ai servizi, Marco Minniti. Allora, adesso ci arriveremo, però rimaniamo in Parlamento e andiamo a parlare di politica, della giornata politica di oggi. Giorno importante, la giunta per le elezioni deve decidere sul voto segreto palese in merito alla decadenza di Berlusconi. Intanto vi voglio leggere qualche agenzia che è appena arrivata sui temi che riguardano Silvio Berlusconi, perché ci sono le motivazioni della sentenza Mediaset. Tra le altre cose che dicono i giudici, il ruolo pubblicamente assunto dall'imputato e soprattutto come uomo politico aggrava la valutazione della sua condotta. E però veniamo al punto politico, perché oggi tra l'altro c'era anche Beppe Grillo alla Camera. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, dopo l'attacco al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla richiesta, ricordiamo, di impeachment, Beppe Grillo si concentra oggi sul Premier, arrivato a Montecitorio per incontrare i deputati 5 Stelle. Grillo spara a zero su Enrico Letta, il paese affonda alla velocità della luce, dice, sono loro questi signori a creare l'instabilità, ovvero l'accusa che ieri gli ha mosso Letta. Vanno in televisione, spiega Grillo, a dire balle, spiegando che c'è un lumicino in fondo alla crisi, ci vogliono elezioni subito e non mancano attacchi anche a Matteo Renzi. Non penso nulla, dice Grillo, perché non si può pensare qualcosa di Renzi. Ribadisce poi il leader del Movimento 5 Stelle, nel caso di sconfitta le prossime elezioni, che lascerà. Adesso vogliono il super porcellum per tenere fuori il Movimento 5 Stelle, e Grillo poi passa a parlare del voto sulla decadenza di Berlusconi, che dice che deve essere palese perché quello segreto è una vergogna. Dal PDL però si ribadiscono che la linea dura, la linea sul voto segreto. Roberto Formigoni addirittura annuncia che il voto palese è un attentato ai diritti dell'uomo. Su questo, ricordiamo, oggi deciderà la giunta per le elezioni di Palazzo Madama, convocata alle 15. Intanto arriva la non risposta di Napolitano a Grillo sull'impeachment. Parlo di Sud, ha detto il capo dello Stato, non me ne occupo. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Il punto di Stefano Folli. Si continua a parlare dell'ipotesi di Marina Berlusconi alla guida di Forza Italia in luogo del padre, e se ne parla nonostante le ripetute smentite dell'interessata. È un indizio che rivela le difficoltà a individuare un nuovo assetto del centrodestra dopo Berlusconi. Al di là dei problemi e anche dei rischi che si corrono a voler creare a tutti i costi una dinastia politica, c'è l'eccezione di Marine Le Pen in Francia, ma è un contesto molto diverso. Al di là, insomma, dei rischi, è la strategia che sembra mancare. Chi vuole a tutti i costi Marina sembra avere in mente la tutela di un blocco politico e la gestione, magari su posizioni sempre più radicali e intransigenti, di una base elettorale nostalgica del padre. Quando invece è abbastanza logico pensare che l'evoluzione del centrodestra è quella di una tipica forza moderata in linea con il Partito Popolare Europeo e capace di interloquire, se necessario, anche con altre forze, almeno sul terreno delle riforme istituzionali. Dunque, veniamo adesso al Data Gate con la nostra Raffaella Calandra per riassumere che cosa è successo questa mattina. Raffaella, sì, eccoti, buongiorno. Buongiorno a te. Richiesta di chiarimenti, nuove regole di collaborazione con Washington, ma difesa della nostra intelligence. Quando l'affare Data Gate assume proporzioni sempre più ampie, si muove su queste tre direttrici la linea italiana. Le indica il capo dei nostri 007, Gian Piero Massolo, le conferma il referente politico dei servizi segreti, Marco Minniti. L'intelligence non può essere una foresta in cui tutto è permesso, è evidente, ammette il sottosegretario, che c'è un problema nei rapporti tra l'intelligence USA e l'Europa. Minniti annuncia la firma di un accordo sulla cyber security con il garante della privacy, ribadisce la richiesta di chiarimenti d'oltreoceano, ma soprattutto sottolinea come l'Italia abbia autonoma capacità di verifica di quanto venga detto. Postilla non superflua, postilla che mette in luce come a questo punto, quando sono emersi i 46 milioni di contatti del nostro paese controllati, insieme alle operazioni targate USA portate avanti in Italia, non bastino più le rassicurazioni date dal capo delle spie americane, quel Case Alexander, che a luglio incontrò Massolo. Eppure di questo incontro ha riferito il direttore del DIS nell'audizione al Comitato di Controllo sui Servizi Segreti. Al momento tutte le verifiche sul Datagate riportano ad una fase storica di controversi rapporti tra gli 007 americani e quelli italiani, agli anni cioè del rapimento a Buomar, e infatti è stato già ascoltato anche il PM milanese Spataro, a quello dell'operazione Sigint nel 2006, ma il governo assicura correttezza e lealtà della nostra intelligence. E per ora è tutto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sulla legge di stabilità arrivano le critiche di Banca d'Italia, Corte dei Conti e Istat, dubbi sul taglio delle tasse sul lavoro, sulle nuove imposte sulla casa. La Giunta per le elezioni decide oggi sul voto segreto per la decadenza di Berlusconi. Grillo alla Camera ribadisce: siamo per il voto palese. Intanto arrivano le motivazioni della sentenza Mediaset. Gli accertamenti, dicono i giudici, dimostrano particolare intensità nel dolo di Silvio Berlusconi, nella commissione del reato contestato, e perseveranza in esso. Datagate: c'è un problema evidente con gli Stati Uniti, dice il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti. 14 anni si prostituivano dopo la scuola per soldi e cocaina. Avveniva a Roma, nel quartiere dei Parioli. Adesso riprendiamo un attimo il filo della politica. In realtà saluto Davide Zoggia, responsabile organizzazione del Partito Democratico. Benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Le abbiamo chiesto di intervenire per le notizie che si stanno leggendo in queste ore e che riguardano il processo di avvicinamento al congresso e la celebrazione dei congressi locali. E la questione è quella che riguarda le tessere. I casi che stiamo leggendo in queste ore e che vengono raccontati colpiscono molto, perché si parla di iscrizioni sospette a stranieri, città nelle quali il numero delle tessere è passato da 3.000 improvvisamente a 9.000 all'ultimo minuto. Ci sono luoghi dove i congressi locali sono stati annullati, come per esempio Catania. Zoggia ci fa un commento, ci dice cosa sta succedendo e se si può considerare regolare a questo punto questo processo congressuale, visti tutti i casi dei quali stiamo leggendo in queste ore. Ma avete notizie, diciamo, non corrette. L'unico congresso che è stato sospeso per accordo fra i due candidati in campo è quello di Catania. Nella stragrande maggioranza dei casi tutti i congressi nel paese si sono svolti nella massima regolarità. Ci sono poi alcune realtà del paese, non molte a dire il vero, dove diciamo ci sono dei congressi che hanno avuto dei ricorsi per varie motivazioni, tesseramento diciamo alterato, ma queste cose diciamo si contano sulle dita di due mani e soprattutto diciamo che sono legate agli scontri dei gruppi dirigenti al di là dell'appartenenza a questa o a quell'altra diciamo candidatura nazionale. Quindi abbiamo usato come Commissione Nazionale regole molto stringenti per quanto riguarda il tesseramento e quindi direi che non è giusto fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono situazioni che quanti casi avete sotto esame adesso, Zoggia? Ma per quanto riguarda il nord Italia ci sono due casi che sono attenzionati, diciamo. Uno è quello di Torino, dove peraltro l'altro giorno è andato diciamo un nostro rappresentante della commissione che si chiama Lunardon a verificare la correttezza diciamo delle iscrizioni, e su questo si sta continuando a lavorare. E un altro caso è quello di Rovigo, ma su questi diciamo casi si esprimerà la commissione regionale del Piemonte e del Veneto. Poi abbiamo alcuni casi nel sud del paese, diciamo in Sicilia, a parte Catania, il resto dei congressi si sta svolgendo regolarmente, abbiamo alcune questioni aperte in Puglia, stiamo lavorando per far partire il congresso di Caserta, qui c'è un problema inverso, nel senso che c'è una difficoltà a far partire il congresso, però diciamo che tra l'altro sono cose che normalmente avvengono diciamo durante una fase congressuale. Oltretutto la scelta fatta quest'anno nel regolamento approvato da tutti è stata quella di lasciare aperte le iscrizioni fino all'ultimo istante. Di solito negli anni precedenti le iscrizioni venivano chiuse qualche settimana prima rispetto allo svolgimento dei congressi, quindi il fatto di aver lasciato aperto fino all'ultimo ovviamente crea delle situazioni di un certo tipo che possono appunto destare. Ma i casi quindi quanti saranno che avete sotto anche una decina? Ma saranno 6 o 7, diciamo, quindi 6 o 7. Non mi pare che si possa parlare. E ripeto, molte volte sono legati a scontri tra i gruppi locali, cioè. E io approfitto anche della vostra trasmissione per fare un appello, insomma, in questo senso, perché è evidente che più importanti di tutti è la storia e la vita del Partito Democratico, insomma, al di là dei singoli interessi personali, per cui è evidente che anche questa fase deve mostrare un partito che si rinnova, un partito che governa il paese in questo momento. E credo che l'atteggiamento di tutti noi debba essere consono a questa cosa. Le voglio chiedere anche di un caso specifico, in realtà, che è stato denunciato da uno dei candidati alla segreteria del partito, che è Pippo Civati, che ha raccontato l'altro giorno sul suo blog, immagino che l'avrà visto e l'avrà letto, che un suo sostenitore è stato schiaffeggiato a Napoli da un esponente del PDL che stava facendo tessere per il congresso del PD. Su Napoli vi risulta tutto regolare? A Napoli il congresso si sta completando, non è ancora completato e si sta completando in questi giorni, credo ci siano ancora un po' di congressi in corso, però insomma il risultato per quanto riguarda il nuovo segretario mi sembra abbastanza acquisito. Quindi tutto regolare a Napoli? Ma tutto regolare, ripeto, ci sono dei casi che sono segnalati alle varie commissioni, però stiamo parlando di una macchina democratica, di un processo democratico che porterà il voto alla fine dei congressi provinciali. Non abbiamo ovviamente ancora i numeri, ma 700-800 mila persone, quindi cioè, è evidente che ci può essere qualche situazione di questo tipo. E ripeto, molte volte sono frutti di scontri che in tutti questi anni non si sono quietati, diciamo, nei territori che sono coinvolti in questa discussione. Per cui, noi lavoriamo affinché tutto possa svolgersi nella massima regolarità, però dare un'immagine così del Partito Democratico non mi sembra corretto, visto che ci sono intere regioni dove tutto si è svolto molto regolarmente senza nessuna, diciamo, contestazione, nessuna preoccupazione, quindi non sono disponibile a dare una considerazione, diciamo, del Partito Democratico di questo tipo. Ripeto, ci sono casi, i casi li stiamo affrontando assieme alle commissioni provinciali e regionali, però insomma, viva Dio, questa è una macchina democratica che coinvolge centinaia di migliaia di persone, per cui mi sembra comunque un esercizio democratico molto importante. Grazie Davide Zoggia per essere stato con noi, responsabile organizzazione del PD, e buona giornata. Noi restiamo in parte sulla politica per parlare del Movimento 5 Stelle in questo caso. Ieri è stata presentata la famosa piattaforma tanto richiesta da eletti ed iscritti per poter giudicare le proposte di legge. Allora io saluto Davide Barillari, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Regione Lazio, benvenuto. Buongiorno a tutti. E perché lo abbiamo chiamato? Perché qualche mese fa Barillari ha presentato un suo progetto, è un informatico lui, che ha preso in mano il sistema di voto online del Partito Pirata Tedesco, l'ha rivisto, l'ha risistemato e l'ha migliorato e ha creato un progetto che insomma viene studiato anche nelle università internazionali. Come si è sentito Barillari quando invece Casaleggio e Grillo hanno presentato il loro? Diciamo che questo è un passo comunque in avanti verso la famosa democrazia diretta che abbiamo tanto teorizzato nel nostro programma, che finalmente la stiamo vedendo applicata. Quindi per me è importante che ci sia comunque uno strumento, che sia quello sviluppato dagli attivisti nel Lazio, che sia quello di Casaleggio e di altri, uno strumento che permetta a tutti i cittadini di poter incidere sull'attività legislativa e magari a fronte di una proposta di legge che viene discussa in Parlamento, ognuno di noi può dare un suggerimento, intervenire in questa. Ma qua Barillari non sono tutti cittadini, qua sono solamente gli iscritti al movimento. Sì, perché la democrazia diretta è una cosa molto complessa che anche noi nel movimento siamo ancora, diciamo, ancora in, come posso dire, inesperti, per cui iniziamo a usarla noi, iniziamo a vedere come funziona, però l'obiettivo è quello di aprire a tutti i cittadini questi strumenti, come fanno anche altri paesi. Ma non era meglio usare il suo di sistema, Barillari? Vuole proprio questa risposta. Ma diciamo, sì. ci sono molte differenze fra quello che abbiamo sviluppato noi in tanti mesi di lavoro, dal basso, mentre quest'altra piattaforma è stata, diciamo, sviluppata da Casaleggio con lo staff nazionale. Diciamo che ci sono punti di contatto su cui stiamo lavorando insieme. State lavorando insieme, quindi? Sì, diciamo che l'obiettivo è questo, non è facilissimo, ma vogliamo che quello che è stato presentato ieri come sistema operativo 5 Stelle possa migliorare grazie al contributo di tutti, anche da chi come noi ci ha lavorato per tanto tempo. Le sembra un sistema abbastanza sicuro? Fa proprio le domande giuste, complimenti. Grazie. Diciamo che potrebbe essere migliorata molto la sicurezza, perché se ormai ci colleghiamo a una nostra home banking, a un sito online per fare, non so, bonifici, estratti conto, è chiaro che non basta più l'utenza e la password, ormai sono, diciamo, a un livello molto insicuro di una piattaforma informatica. Quindi noi vogliamo che non ci sia solo l'utenza e la password, ma ci siano altri strumenti, l'autenticazione e certificazione degli utenti come a livello bancario, quindi si può raggiungere questo livello di sicurezza, che attualmente non c'è. Attualmente non c'è quindi questo livello di sicurezza. Altri punti deboli? Brevemente. I deboli sono attualmente solo possibile inserire dei suggerimenti e stabilire una priorità di questi suggerimenti che poi andranno a integrare la proposta di legge base. In realtà questo è un processo molto complesso che deve essere migliorato e raffinato. Intendo come un semplice cittadino può fare degli emendamenti a una proposta di legge, verificare che ci sia una copertura finanziaria, legislativa, tecnica e poi poterli vedere nella proposta di legge. Mancano questi passaggi di come una legge poi viene costruita di passo, diciamo, passo passo. Grazie Barillari, anche se non mi si è sbilanciato, perché secondo me lei un po' se l'è presa, super. Un pochino sì, dai, diciamolo. Diciamolo, va bene, grazie. Grazie Barillari, buona giornata. Allora noi in chiusura di questa parte, poi ci ritroveremo, andremo su una vicenda di cronaca terribile, le due ragazze di 14 anni che si prostituivano dopo la scuola per soldi e cocaina, ma prima voglio andare all'estero. Innanzitutto per fare un breve riassunto su quello che è successo finora con la tempesta di San Giuda, con la quale abbiamo aperto ieri effetto giorno. Al momento le vittime sono 12, 4 in Gran Bretagna, 3 in Germania, 2 in Olanda, 2 in Danimarca e 1 in Francia. Ci sono ancora forti venti, alberi abbattuti, ci sono aree allagate, quelle basse sul livello del mare, soprattutto naturalmente in Olanda, ci sono centinaia di abitazioni senza energia e reti di trasporti bloccati. Naturalmente vi aggiorneremo su quello, ma restiamo all'estero. Parliamo dell'attentato a Pechino di ieri. La polizia cinese sospetta ora un attacco suicida. Hanno iniziato ad indagare nei diversi alberghi della capitale per cercare informazioni su clienti e veicoli sospetti, facendo riferimento ad un fatto importante avvenuto lunedì. Gli inquirenti cinesi non hanno fatto nessun riferimento esplicito al termine attentato, ma per molti quello è. Ieri in piazza Tiananmen a Pechino, un'auto avvolta dalle fiamme ha sfondato le transenne del luogo simbolo delle rivolte studentesche dell'89, uccidendo 5 persone e ferendone 38. Per alcuni si tratterebbe di un attacco suicida, 2 i ricercati sarebbero uiguri dello Xinjiang, regione che si trova nella parte più occidentale della Cina, dove vive una minoranza musulmana turcofona vittima di discriminazione linguistica, culturale e religiosa da parte del governo centrale. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sulla legge di stabilità arrivano le critiche della Banca d'Italia, della Corte dei Conti e dell'Istat. Ci sono dubbi soprattutto sul taglio delle tasse sul lavoro e sulle nuove imposte sulla casa. Il governo, tra l'altro, le starebbe ripensando. Stanno arrivando in questi minuti le motivazioni della sentenza Mediaset. Berlusconi, dicono i giudici, non ha estinto il debito con il fisco. Oggi riunione della giunta per decidere su un voto segreto o palese. Parole di poco fa del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in risposta ad un cittadino che gli diceva gli dia 30 giorni di tempo per fare le riforme oppure mandi tutti a casa. Dice, per me di giorni gliene darei 7. Datagate, c'è un problema evidente con gli Stati Uniti, dice il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti. E noi, in apertura di questa seconda parte, vogliamo andare alla cronaca e vogliamo andare alle rivelazioni di Lea Garofalo che hanno portato oggi ad una serie di arresti. se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma. Il 19 ottobre Denis Cosco salutava così la mamma Lea Garofalo, l'occasione e i funerali civili voluti dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia per commemorare la figura della collaboratrice di giustizia che si ribellò alle cosche e fu fatta rapire e uccidere dal marito. A pochi giorni di distanza l'importanza del sacrificio di Lea Garofalo si riverbera nella cronaca. Grazie alle sue deposizioni e a quelle di alcuni pentiti, questa mattina sono state arrestate 17 persone affiliate all''Ndrangheta. L'operazione, che ha avuto il suo cuore a Crotone ma si è svolta in tutta Italia, ha consentito di identificare i responsabili di 7 omicidi avvenuti tra il 1989 e il 2007 in una guerra di cosche. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano in particolare vertici e affiliati al clan Comberiati di Petilia Policastro. Grazie alle rivelazioni di Lea Garofalo è stato arrestato anche il boss Nicolino Grande Aracri, a capo dell'omonima cosca. Arianna Filippini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo adesso sempre ad una storia di cronaca terribile per chiunque abbia figli, per chiunque sia genitore, ed è il racconto che è arrivato da Roma nelle scorse ore. Si tratta di due ragazze di 14 e 15 anni, compagne di banco al ginnasio, che erano diventate delle prostitute per comprare cocaina. Si facevano gestire sostanzialmente da uomini conosciuti su Facebook. Una delle due, tra l'altro, era sfruttata anche da sua madre. Allora, saluto Alberto Pellai, che è voce nota di Radio 24, come sapete, uno psicoterapeuta. L'ultimo libro, se non sbaglio, Alberto, è insieme a Barbara Tamborini, Lasciatemi crescere in pace, come vivere serenamente l'adolescenza. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno Simone. Allora, io vorrei un tuo commento su questa vicenda, capire un attimo come sia possibile che avvengano fatti di questo genere. Oggettivamente questa è una vicenda terribile, una rivisitazione moderna e orribile della favola di Cappuccetto Rosso, perché quello che credo io è che gli adolescenti siano molto bravi a mettersi nei pasticci e in qualche modo lo devono anche fare, cioè non può esserci adolescenza senza una certa esplorazione della zona della trasgressione, però hanno bisogno di poter fare questo in un bosco che è presidiato da un mondo degli adulti che ha le idee molto chiare su quali sono i limiti e come si fa ad accompagnare verso l'adultità un ragazzo che cresce, mentre qua invece vediamo un mondo di adulti fatti un po' sulla stregua del lucignolo di Pinocchio, cioè adulti che si comportano come il peggior amico di un figlio, lo trascinano nelle situazioni peggiori, c'è proprio tutto un mondo di adulti intorno a queste ragazze, addirittura genitori che si fanno consegnare parte del ricavato del lavoro di prostituzione del figlio. E secondo me la novità di una storia di questo tipo è che non arriva da un territorio ultra disagiato, dalle fasce ai margini della società. Queste sono ragazze che frequentano un liceo e che vivono in un quartiere molto agiato della capitale. Ascolta Alberto, com'è possibile una deviazione di questo genere? Se vogliamo è quasi una domanda a livello sociale che ti faccio, insomma, sai, poi come te sono padre anch'io, totalizziamo 7 figli in 2 se non sbaglio, insomma, è una quindi bella collezione. Sì, esatto. Com'è possibile che avvenga qualcosa di questo genere? Ma io credo che ci sia una combinazione di due variabili. Il primo è il fatto che il bosco di Cappuccetto Rosso oggi è davvero fatto dall'esplorazione nella zona web, e i nostri ragazzi sono degli incredibili esploratori e in questo territorio non trovano quello che serve a loro per diventare grandi, ma trovano tutto, e in questo senso trovando tutto imparano a normalizzare nella loro vita cose che invece non sono normalizzabili, anzi sono oltremodo pericolose. Questo genere di esplorazioni avviene nel silenzio, spesso nel tacito assenso dei genitori, comunque nell'ignoranza dei genitori, cioè quello che un figlio fa dentro al mondo web in qualche modo non è mai supervisionato, mai accompagnato, mai tutorato, ecco, da un genitore. E credo che la terza variabile sia che comunque queste ragazze stanno mettendo in pratica quello che il mondo degli adulti in generale ha insegnato alle nuove generazioni, cioè che sesso, soldi ed eccitazioni sono diventati nuovi valori intorno ai quali orientare. C'è un modello culturale sbagliato, quindi? Bah, più di così, direi, credo che loro fondamentalmente non hanno fatto tutto quello che hanno fatto, probabilmente senza neanche rendersi conto che stavano commettendo un reato gravissimo e penalmente perseguibile, e probabilmente si comportano come tanti ragazzi che si mettono nei pasticci e ti dicono: ma perché non dovrei farlo? Prima domanda, e poi: beh, ma io non ci avevo proprio pensato che questa era una cosa così grave. E c'è anche un livello di solitudine molto elevato. Sì, io credo che poi questa è proprio una storia della solitudine, solitudine dei figli, solitudine dei genitori, solitudine di un mondo adulto che non ha più una mente comune e non sa sviluppare un pensiero forte che sa contenere e in qualche modo anche accompagnare il desiderio di trasgressione di chi sta crescendo. Grazie, grazie ad Alberto Pellai. Il libro, l'ultimo libro era quello giusto, no? Così sì, lo ricitiamo. Esatto. Autore insieme a Barbara Tamborini di Lasciatemi crescere in pace, come vivere serenamente l'adolescenza, psicoterapeuta, e ci diamo del tu perché, insomma, lavora, l'avete sentito ai microfoni di Radio 24 ormai tanto spesso, ai microfoni di Nicoletta Carbone, che, insomma, sapete benissimo chi è. Grazie Alberto e buona giornata. Ciao Simone, buona giornata a tutti. E noi, come sempre, a quest'ora, prima della pausa per la viabilità, andiamo a parlare della legge elettorale. Vi ricordo le parole di poco fa del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che sono stupende perché sono veramente le parole di un uomo che non ne può più. Un cittadino lo ferma per strada e gli dice: Presidente, gli dia 30 giorni per fare le riforme, se no mandi tutti a casa. E lui risponde: fosse per me, di giorni gliene darei solamente 7. In questo caso parliamo della legge elettorale. Perché? Perché stiamo seguendo, come sapete, questa sorta di staffetta che viene fatta da persone comuni, politici, anche attori, registi, un giorno di digiuno a testa in solidarietà con Roberto Giachetti del Partito Democratico, deputato del Partito Democratico, che sta facendo uno sciopero della fame ormai da 22 giorni, credo che abbia perso intorno ai 7-8 kg, per la modifica della legge elettorale. Tutto questo arriverà a compimento giovedì. È il 31 ottobre, è il No Porcellum Day. Mi fa piacere segnalare, tra l'altro, in questa giornata il blog collettivo Valigia Blu, www.valigiablu.it, che sta facendo un countdown quotidiano al 31 ottobre, ma non per il No Porcellum Day, ma perché il Presidente del Consiglio Enrico Letta aveva detto che entro ottobre si sarebbe fatta la legge elettorale, entro la fine di ottobre. Si diceva: ogni giorno una persona. Che abbiamo in linea oggi? Maria Paola Bono di Prazzo, provincia di Cuneo. Che mestiere fa? Sono un'albergatrice. E come mai ha deciso di aderire a questa protesta? Perché è giusto che tutti gli italiani possano scegliersi il candidato che preferiscono alla Camera e al Senato. Questa legge non è nemmeno costituzionale. Non è nemmeno costituzionale, questo naturalmente lo decide, è molto probabile, però deciderà la Corte Costituzionale il 3 di dicembre. Ma come mai un cittadino comune decide di fare questa cosa? Perché è una cosa che serve per tutti, non è che serve per qualcuno. È giusto che possiamo sceglierci, come ripeto, le persone che ci rappresentano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Perplessità tanto dalla Banca d'Italia quanto dall'Istat, quanto dalla Corte dei Conti sulla legge di stabilità. Secondo i magistrati contabili, con il taglio del cuneo fiscale ci sono rischi dal lato dell'equità, ci sono preoccupazioni anche per quanto riguarda le tasse sulla casa. Sono arrivate le motivazioni della sentenza Mediaset e Berlusconi, dicono i giudici, non ha estinto il debito con il fisco. Fosse per me, gli darei 7 giorni di tempo, così dice il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in merito alle riforme e parlando dei partiti politici. Datagate, c'è un problema evidente con gli Stati Uniti, dice il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti. Nessuna conferma finora sullo spionaggio da parte di Putin, riferisce l'Unione Europea, mentre la stessa Russia smentisce un chiaro tentativo di sviare l'attenzione da un problema realmente esistente. E naturalmente anche di tutte queste vicende ci parla oggi Mario Platero.